Tutti convocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. 800 24 00 24 per le vostre chiamate in diretta, 349 238 6666 per i vostri messaggi, oppure chiocciola tutti convocati se volete seguirci su Twitter. Un saluto a Franco Piattanide, autore di questa puntata, Roby Scaltritti dietro il vetro. Di cosa parliamo oggi? Non lo so, dite voi. Temo che dovremo parlare di razzismo, curve, stadi chiusi, norme da cambiare. È arrivata pochi minuti fa la risposta del presidente della Federcalcio Abete sul caso Milan. È opportuna e doverosa una riflessione sulle modalità applicative della norma antidiscriminazioni, ha detto Giancarlo Abete. Però sia chiaro che l'Italia ha solo recepito la normativa prevista dall'UEFA e dunque il quadro normativo è delineato e non è frutto di un'autonoma decisione da parte della federazione. Io in questa frase di Giancarlo Abete leggo un gentile no alla richiesta di Galliani e della Lega Calcio di cambiare in corsa la norma sulla discriminazione territoriale, quella che porterà alla chiusura dello stadio di San Siro in occasione della prossima partita del Milan, quella contro l'Udinese. Non so cosa ne pensate voi. 800 24 00 24, io ve l'ho già detto, norme giustissime, giustificate anche dalla situazione di emergenza dei nostri stadi, e però norme troppo rigide per non essere considerate stupide. Io oggi sono davvero sconcertato, ve lo confesso. Mi chiedo, ma dove hanno vissuto gli illuminati dirigenti del nostro calcio negli ultimi due mesi? Dove hanno vissuto, forse su Marte, su un altro pianeta? Perché in queste ore abbiamo ascoltato cose giustificatissime, per carità, ma che potevano anche essere dette il 5 agosto, il giorno in cui la Federcalcio, con una semplice circolare, ha di fatto introdotto questo nuovo regolamento. E invece abbiamo sentito anche questo, Galliani sui cori. Nessun giornale, nessuna televisione, abbiamo fatto fare indagine, mi risulta che abbia sentito nulla ieri sera. Perché probabilmente non c'è stato nulla, forse uno ha sentito uno della Procura Federale in bagno piuttosto che al bar, non so dove. Adesso mi prenderò una squalifica anch'io, può darsi, però spero non per discriminazione territoriale. O ancora Galliani su questa norma, quella della discriminazione territoriale, quella che oggi, ve lo ricordo, Abete, pochi minuti fa, presidente della Federcalcio, ha detto: non l'abbiamo inventata noi in Italia, semplicemente stiamo applicando una normativa dell'UEFA. Sentiamolo, Galliani. Tutti i presidenti la pensano come me. Mi sono affrettato a chiamare il presidente Abete per chiedergli ragione di questa cosa e cosa ne pensa e se pensa che sia giusto mantenere questa norma qui. Quindi quello che io chiedo è che questa norma venga abolita. Capisco il razzismo, perché il razzismo è un problema grave, un problema del mondo, e quindi non bene il razzismo, ma anche la discriminazione territoriale, francamente. Francamente, anche la discriminazione territoriale sta lì già da un paio di stagioni, caro Galliani, perché non è cambiato nulla da questo punto di vista, è cambiato soltanto che un anno fa scattavano le multe e non le chiusure dei settori degli stadi, perché venivano applicate le attenuanti, perché c'era sempre il discorso sulla collaborazione e prevenzione delle società. E quindi non succedeva quello che sta succedendo adesso, ma la discriminazione territoriale in Italia è da tempo che fa parte del famoso articolo 11, quello che contiene anche le norme sulla discriminazione razziale. E poi ancora, perché c'è, ma noi ne parliamo da qualche settimana, da questo microfono, l'idea che esista il rischio di un ricatto, nemmeno troppo sottile, delle curve nei confronti delle società. E allora sentiamo ancora Galliani. E più in generale mi sembra perfetto come norma, in un paese dove non va nessuno negli stadi, dove abbiamo stadi vecchi, obsoleti, con nessuno, chiudere uno stadio mi sembra perfetto anche politicamente, geniale, anzi troverei una cosa veramente geniale quella di chiudere uno stadio. Quindi una volta ti chiudono la curva, al secondo giro, sempre per discriminazione territoriale, ti chiudono lo stadio, alla terza volta invece ti danno partita persa. E volendo anche con una penalizzazione oltre a partita persa. Vuol dire che se 50 persone si mettono d'accordo uccidono una società. Io mi chiedo dov'era Galliani, dov'erano tutti gli altri, senza colpevolizzare Galliani, quando il 5 agosto la Federcalcio, ripeto, con una circolare, ha cancellato le attenuanti dall'applicazione delle norme sulla discriminazione territoriale e razziale e di fatto ha sancito questo tariffario per cui alla prima c'è la chiusura del settore, alla seconda c'è la squalifica dello stadio, dalla terza in poi si va di 0-3 a tavolino e di penalizzazioni in classifica e capiterà in questo campionato perché capiterà. L'hanno detto anche gli ultras. Vi leggo un passaggio del comunicato pubblicato ieri a tarda serata dalla curva sud del Milan sul sito internet. Noi non abbassiamo la testa di fronte a questi soprusi, ci auguriamo che tutta Italia abbia presente a che cosa andiamo incontro. Ci stanno togliendo il diritto di esprimere il nostro tifo e, dicono gli ultra del Milan, saremo ben felici di scoprire quanto un campionato giocato a porte chiuse sarà interessante per i mercati esteri, creando un buco al sistema calcio. Avete capito che cosa ha detto? Pier, ci sei? Eccoci qua. Pierluigi, hai capito che cosa hanno detto gli ultra del Milan? Ma guarda, quello che una settimana fa commentavamo come una possibilità, mi pare che si stia verificando, nel senso che le curve hanno preso posizione in questo weekend. Prima ancora gli ultra del Milan ci sono stati gli striscioni dei tifosi dell'Inter, della curva nord dell'Inter e dei tifosi del Napoli, della curva B. E, insomma, mi pare abbastanza chiaro, abbastanza evidente che questi gruppi ultra sono consapevoli di avere un ruolo e di volerlo esercitare. Sì, però io l'ho detto, io sono sconcertato, Pier, poi ne parliamo, adesso c'è il traffico, ma io mi chiedo, ma dove sono stati negli ultimi 63 giorni, 64 oggi, i nostri dirigenti? Gagliani, quelle cose che abbiamo sentito e che ha detto ieri, che sono tutte giuste, no, non tutte giuste, però diciamo sono tutte sicuramente comprensibili e sottoscrivibili, quelle cose poteva dirle il 5 agosto, quando la Federcalcio ha cambiato le norme. 800 24 00 24, secondo me erano su Marte, o forse erano impegnati nel calciomercato. Tutti convocati. 800 24 00 24 per le vostre chiamate in diretta. Pierluigi Pardo, abbiamo un presidente che secondo me è uno dei pochi, forse l'unico, se n'era accorto il 5 agosto, sicuramente qualche giorno dopo, quando per primo è incappato in questa tolleranza zero. Saluto Claudio Lotito, presidente della Lazio. Buon pomeriggio, presidente. Buon pomeriggio a voi. Buongiorno a tutti. Io ho detto all'inizio che oggi sono un po' sconcertato, quasi tutto giusto quello che ho sentito ieri da Gagliani e non solo. Abbiamo letto la risposta di Abete, dopodiché mi chiedo dove eravate in questi due mesi dal 5 agosto, quando questa norma è stata cambiata togliendo le attenuanti e nessuno si è accorto del potenziale dirompente di quello che sta accadendo, ma che era abbastanza chiaro, presidente. Ma non è vero che nessuno si è accorto, io l'ho sollevato in consigli di consiglio, c'è cioè un verbale dove io ho posto il problema di quello che sarebbe accaduto qualora avessimo attuato la norma in quella maniera, togliendo le attenuanti esimenti, non andando a valutare la portata degli episodi. Portata significa, se un conto se lo fa tutta la curva o tutto lo stadio, allora ha un significato. Ma se 20 persone, 50 persone che non rappresentano chiaramente la tifoseria, ma sono dei delinquenti tifosi e non dei tifosi delinquenti, sì, dovrebbe avere un peso diverso. Uno degli atteggiamenti di questo tipo non ne può pagare, non possono pagare le spese, società e soprattutto tutti i tifosi che con passione e con sentimento autentico seguono la propria squadra del cuore nel rispetto delle regole. E cosa le hanno risposto, presidente? No, è che questo, che la norma UEFA. Purtroppo nella vita bisogna anche avere la capacità di capire che le norme vanno attuate in relazione anche all'habitat in cui devono essere attuate. Questo perché, voglio dire, in Inghilterra c'è un tipo di mentalità, come voi sapete, che si mettono in fila per l'autobus, in Italia a chi arriva se arriva per primo. Purtroppo questa è la mentalità italiana, allora bisogna che si attaglino le norme e che siano compatibili agli usi e costumi dell'ambiente, no? Quindi allora voglio dire, cioè, nel caso di specie, gli stadi non sono quelli che sono, ormai lo sappiamo tutti, non sono più stadi tali da poter consentire forme assolute di prevenzione selettiva, nel senso che quando uno ha lo stadio di proprietà sa già dove vengono posti, da chi vengono occupati ed è in grado di fare anche una selezione preventiva. Noi nel caso di specie non la possiamo fare perché lo stadio sicuramente non è, nel caso per esempio della Lazio, nella disponibilità della Lazio, per cui lo usa per la partita e quindi non può fare un'opera di selezione preventiva. Aggiungo che le stesse, per esempio, il proferire parole non sono azioni che possono essere in qualche modo debellate per il semplice fatto perché le telecamere mettono in evidenza comportamenti violenti, mettono in evidenza comportamenti discriminatori attraverso chiaramente striscioni, eccetera. Non possiamo mettere un microfono sotto ogni spettatore per vedere, e la cosa ancora più grave no, è che le forze, io più volte ho sollecitato le forze dell'ordine in tal senso, e giustamente lo hanno detto, ma noi come possiamo a rilevare se una persona crea chiaramente fa dei cori razzisti? Aggiungo che col termine razzista oggi viene inglobata una serie di comportamenti che sono più che altro maleducati più che e campanilisti. Cioè, quelli che Allegri, presidente, un momento. Della Lazio, per esempio, prego. Hanno chiuso la UEFA, ha chiuso tutto tutto lo stadio, e alcuni spettatori della curva, alcuni significa parliamo 50 persone, questo identifica 50 persone facevano un coro che diceva polacchi puzzate di cioccolata. Allora, voglio dire, dopo che i polacchi hanno messo a ferro e fuoco la città, l'avete visto quello che è successo, non è successo niente alla squadra polacca, hanno chiuso lo stadio alla Lazio. Allora, e tutto questo è rilevato da chi? Né dalle forze dell'ordine, né dagli arbitri, né dal delegato UEFA. Presidente, da un'associazione, aspetti, così capisce la deviazione del suo sistema, da un'associazione che si chiama FARE, che è stata incaricata da UEFA andare a fare le rilevazioni. E chi dice che le rilevazioni, voglio dire, sono tali da poter giustificare questo lo sanno solo loro. Hanno detto, il delegato UEFA non ha sentito, l'arbitro non ha sentito, le forze dell'ordine hanno sentito, la relazione è chiusa dallo stadio. Allora, al Milan è successa la stessa cosa. Allora, sì, voglio dire, il problema qual è? Che questo fa sì che le squadre diventino ostaggio delle società. Perché le faccio un esempio pratico. Se una tifoseria, tra virgolette, o un gruppo di tifosi, vuole fare in maniera che di impedire alla gente di andare allo stadio, e basta che fa 50 gol ed è finita la pratica. Certo, Pierre, prego. Il concetto è chiarissimo, Presidente. Che cosa si può fare? Che cosa farete a questo punto? Perché sai, ieri è arrivata questa quello dimostrazione... che farò è che io rappresenterò nelle sedi istituzionali dove sono preposto. Chiaramente che la norma non va applicata così che ti semplifici come è stata impostata, perché crea solo danni, diventa un boomerang invece che un vantaggio. E che è quello che peraltro avevo preventivato. Ci stanno i verbali, quindi. La seconda cosa è che bisogna chiaramente mettere in campo, cosa che la mia società e sicuramente anche la mia, tutta una serie di azioni volte per prevenire certi fenomeni, ma per reprimerli. Però il problema della parola, come la reprimi? Non è poi avere, non c'è il riscontro obiettivo per il DASPO, eccetera. Terza cosa, sicuramente, bisogna fare in maniera che le società abbiano degli strumenti in mano per evitare che queste persone possano agire in questa maniera. E per avere gli strumenti in mano significa che devono essere norme esimenti, norme attenuanti, tali che consentono alla società, se la società ha messo in campo tutta una serie di azioni volte a prevenire, a reprimere certi fenomeni e collaborando con l'istruzione delle forze dell'ordine. Come era fino all'anno scorso, Presidente? Come era fino all'anno scorso? Anche lo spirito della gente che strumentalmente per altri fini può attare queste azioni e questi comportamenti. Presidente Lotito, però abbiamo letto prima la risposta di Abete di pochi minuti fa, dice sostanzialmente è opportuna e doverosa una riflessione, però sia chiaro che il quadro è delineato e non è frutto di un'autonoma decisione della federazione. Ma lui ha ragione, però posso dire una cosa? Noi siamo la federazione del gioco calcio italiana. Sì, ma difficilmente Presidente si interverrà. Noi siamo la federazione del gioco calcio italiana. Siamo una delle federazioni più importanti della UEFA. Abbiamo un rappresentante con il ruolo di vicepresidente che è nella persona di Giancarlo Abete. Bisogna che Platini capisca queste situazioni, perché non è che è diventato il Vangelo Platini, no. Perché Platini è il Vangelo, esiste solo il nostro Signore Gesù Cristo. Bisogna tagliarlo le condizioni specifiche. Perché allora l'Alas mi dica l'Alas che deve fare. Cioè in più che mettere in moto un rapporto di collaborazione continuativa H24 con le forze dell'ordine. Più che fare tutte le azioni negli ospedali, nelle scuole, nelle cose per prevenire, educare, mi sembra che i comportamenti dei giocatori della Lazio sono sempre volti a comunque dare sempre un comportamento civile e corretto anche sul campo. Tutte le azioni che ha fatto la società attraverso le maglie, le promozioni di iniziative, la maglia non razzista, tutta una serie di inserimenti. Che altro? Tutti i giorni, avendo una radio, parla di questi problemi, avendo una televisione di questi problemi. Ma più di questo che deve fare? Cioè non è che posso mettere un carabiniere per ogni, o un poliziotto per ogni spettatore, e con un microfono che sta sotto e dice scusa che hai detto, aspetta un attimo. Allora tutta questa cosa significa, quando dicevo la portata, significa che se un settore giustamente di migliaia di persone assume un comportamento di un certo tipo, è giusto che vada censurato. Ma se 30 persone non sono, rappresentano la tifoseria, sono bisogna distinguere tra i tifosi delinquenti e i delinquenti tifosi, e sono due cose diverse. Chiaro. E allora a questo punto è chiaro, senza questa distinzione viene usata la norma come una spada in mano a una persona che taglia la testa a chiunque passa, non è possibile. Piero, ho l'impressione però che lette anche le parole di Abete, Lotito ha ragione, ma sono processi di medio-lungo termine, da qui a giugno, che facciamo, Piero? Scusi, la norma è stata recepita dalla Federazione del Gioco Calcio Italiano e basta che vengano... Sì, ma da qui a giugno, da qui a giugno... Da qui a giugno o le procure federali fanno, se non cambiano le norme, o le procure federali fanno finta di non sentire, lo dico, non è bellissimo, ma è così, oppure è difficile. Perché è difficile? Presidente, ha ragione, No, ha ragione, ma poi lo abbiamo detto anche noi in queste settimane, ma da qui a giugno arriveranno gli 0-3, io non so se verranno cambiate queste regole. Guardi, non è che si tratta di aver torto, aver ragione, si tratta di vivere quotidianamente la vita di una società con i problemi che ha la singola società nel singolo ambiente, perché ci sono alcune società che vivono in certi ambienti dove sicuramente certi comportamenti non ci sono, ci sono altre dove sono endemiche, ma endemiche per motivi, come dire, storici, culturali, ambientali, che non dipendono dalla società. Ha capito? E allora la società può prevenire i fenomeni di violenza, cercare di prevenire i fenomeni, cioè gli striscioni, le cose, cercando di controllare le persone, ma non è che può cucire la bocca alle persone, perché altrimenti sarebbe impossibile, no? Pier, vai. No, credo che mai come questa volta il Presidente è stato assolutamente, però, assolutamente chiaro. No, non vedo via d'uscita, sinceramente non vedo via d'uscita, perché al di là della solidarietà, che in questo momento è il Milan, ma la cosa potrebbe succedere a qualsiasi altra società che sta arrivando in questo momento, la solidarietà della Lega, e insomma anche la dichiarazione che ci ricordavi di stamattina fa capire che difficilmente si può cambiare nell'immediato tutto questo meccanismo. Ma basterebbe rifare l'esimenti. Scusi, la norma passa, è stata recepita dalla Federazione Gioco Calcio circa due mesi or sono, e adesso non so, non ricordo con esattezza. 5 agosto, glielo dico 5 io. 5 agosto, quindi non mi sono sbagliato. Allora, il problema di fondo qual è? Io quello che dico è la portata del fenomeno. La portata del fenomeno va chiaramente valutata. Sì, se sono pochi o sono tanti. La norma sì, che ti dice sempre valuta senza valutare la portata del fenomeno. Presidente, torno a ripetere, se un'intera curva agisce in una certa maniera, significa che è un dissenso, è un comportamento della tifoseria. Se 50 persone, 100 persone agiscono in una certa maniera, questi non sono tifosi, sono delinquenti tifosi e non possono rappresentare la tifoseria, perché è un oltraggio nei confronti della gente per bene che va allo stadio con passione e con sentimenti nel rispetto delle regole, e creando un danno, perché quando tu chiudi lo stadio non solo al delinquente, ma chiudi pure alle persone per bene. Allora bisogna chiaramente fare in maniera che la norma selezioni la portata delle vicende, perché altrimenti diventa un problema, e metta nella condizione della società sicuramente di avere azioni per poter prevenire e ridurre certi fenomeni, cosa che oggi non c'ha, perché non c'ha né le ingredienti, né le attenuanti, non c'ha nulla. Sì, e non è pensante se la società mette in campo tutto quello che deve mettere in campo, debba pagare le conseguenze, che sono conseguenze di carattere di credibilità sportive ed economiche soprattutto. E poi il danno è tutto il calcio nazionale, perché quando una società come la Lazio, come il Milan e come tante altre società che svolgono un ruolo sportivo anche a livello di competizioni europee, viene danneggiato tutto la credibilità dell'intero sistema sportivo italiano. Presidente, abbiamo un paio di minuti, poi la devo lasciare, devo dare la linea alla borsa. Mi aiuti con il dono della sintesi. Oggi voi società, lei presidente della Lazio, siete sotto ricatto dagli ultra. Abbiamo letto prima anche il comunicato della curva sud del Milan, secondo me è delirante. Siete sotto ricatto? Non è che è delirante, è quello che accade quotidianamente anche al sottoscritto tutti i giorni, quindi non è delirante, perché ancora si consente a questa gente di poter svolgere questo ruolo. Qui io ho detto anche in un'intervista ultima, qui non c'è una categoria professionale di tifosi, né c'è sulla carta d'identità professione tifoso, qui esistono persone che vanno a vedere la partita, persone più educate, meno educate, poi ci sono i delinquenti, perché anche i delinquenti sono tifosi. Quindi, allora, quindi fuori gli ultra dagli stadi? Fuori gli ultra dagli stadi, Presidente? Per colpa delle 10 persone che vanno a vedere la partita, perché noi non abbiamo la possibilità di poter evitare che questi ci vadano. Fuori gli ultra dagli stadi, mi sta dicendo, visto che poi il problema di solito si annida lì. Prego? Fuori gli ultra dagli stadi, mi sta dicendo. Non c'è, vede, lei si sta sbagliando, lei non dice fuori gli ultra. perché ci sono anche ultra che si comportano in modo corretto. Non è vero che ultra significa dal punto di vista pratico uno che è, come dire, va oltre dal punto di vista della qualità, della forza del tipo, ma la forza del tipo non necessariamente deve diventare violenta e razzista, no, voglio dire, tu vanno allo stadio, smetto là, fa qualsiasi cosa nel rispetto comunque in qualche maniera delle regole. Purtroppo ci sono persone che vanno allo stadio non per vedere la partita, ma per fare atti criminosi, ed è stato accertato. Nelle curve, negli stadi, attraverso la tifoseria, ci sono tutta una serie di azioni delinquenziali che vengono messe in atto e che determinano chiaramente un'azione che non ha nulla a che vedere col tifo. Ha capito, questo è il problema? Sì. Mentre si dà una connotazione di sportiva a un comportamento che è sicuramente delinquenziale. L'ho detto, tifoso delinquente o delinquente tifoso. Parliamo di delinquenti tifosi che non hanno nulla a che vedere con lo stadio. Ti dico una cosa. Dica. Abbiamo la borsa, gente, però, Presidente. Questa gente si ritrova nei cortei che vengono fatti degli anti-DAP, degli anticontestatori della scuola. Sono sempre le stesse persone, passano dallo stadio alla strada e quindi non hanno nulla a che vedere col tifo. Va bene, grazie Presidente. Piero, lasciamo. Abbiamo la borsa. Grazie Presidente Lottito. Tutti convocati. 800 24 00 24. Pier, sono carichissimi i nostri ascoltatori. Immagino. Ti leggo qualche sms. Vai. Fate confusione tra tifosi e pregiudicati. Chiudere gli stadi allontana i veri tifosi. E poi ancora, ma il coro dei tifosi della Juventus quando rinvia il portiere avversario invece è corretto, e se il portiere fosse di colore allora diventa discriminazione territoriale. E poi ancora, dove sta il problema con la tecnologia che c'è oggi? Basta individuare gli ultra che si distinguono dagli altri. E poi è imbecille non distinguere un ultra da un delinquente, bisogna cambiare mestiere. Lottito, è inutile che si arrabbi, proprio perché le persone che fanno questi cori sono una cinquantina, come dice lui questa è una riforma giusta. E poi la peggiore informazione del calcio sono i giornalisti che non distinguono i tifosi dai delinquenti, come lei ce l'ha con me, ce l'ha con te anche, credo, ma io onestamente noi li distinguiamo, e come, però poi siamo sempre a parlare lì di quelle cose. Ce n'è anche un altro interessante che io sottoscrivo, purtroppo con Lottito non siamo riusciti ad affrontare l'argomento. C'è un amico che scrive 349 238 6666: guardate che i tifosi delinquenti in estate lavorano anche per le società, come uomini della security, anche quelli del Milan, proprio quelli che hanno fatto il comunicato. E io ricordo 10 giorni fa con la delegazione degli ultra del Milan fatta entrare a Milanello alla vigilia di Milan-Samp, alla quale è stata espressa anche solidarietà per la chiusura del settore per i primi cori contro i napoletani. Questo secondo me è un tasto in cui le nostre società sono colpevoli, colpevolissime. Sì, io credo che innanzitutto c'è una certezza, cioè chi è la parte lesa di questa situazione, chi è la vittima di questa situazione sono le persone per bene, i tifosi, ma anche dei diritti anche proprio commerciali, patrimoniali delle persone, perché insomma chi è abbonato al Milan quella partita non la vede, e chi gli risarcisce il prezzo del biglietto, chi dell'Udinese voleva andarsi a vedere la partita avrà avuto un diritto comunque nel godersi una serata, no? Chi voleva andare allo stadio e comprarsi il biglietto. Quindi veramente siamo di fronte a un qualcosa di clamoroso, e questo è il punto di partenza. È possibile che esistano in determinate situazioni delle connivenze fra parti e pezzetti di curva, pezzetti di stadio con le società, e questo è un tema che certamente deve essere approfondito. A me sembra che siamo di fronte a qualcosa di storico, perché mi sembra che anche dalla veemenza con la quale Lottito e poi ieri Galliani hanno parlato, per la prima volta ci si rende conto di questa situazione che adesso è potenzialmente capace di bloccare il campionato. Insomma, l'hanno scritto le curve, la curva dell'Inter ha scritto: la prossima volta decideremo noi quando chiudere lo stadio. E l'ha scritto la curva del Milan: saremo ben felici di scoprire quanto un campionato giocato a porte chiuse sarà interessante per i mercati esteri. A proposito di mercati, si parla di diritti TV in questi giorni, figuriamoci. La curva del Napoli l'altro giorno ha fatto questo striscione che si è prestato a varie interpretazioni. Ieri sera abbiamo provato a mettere ordine e capire che cosa ci potesse essere dietro al fatto di scrivere Napoli colera, che i tifosi del Napoli si sono scritti da soli dicendo adesso chiudete anche la nostra curva. Io credo che siamo di fronte, però insomma, da questo punto di vista secondo me bisogna trovare una soluzione, perché altrimenti di tutto questo meccanismo veramente si rischia di compromettere il campionato, ma soprattutto si rischia di compromettere i diritti delle persone, perché arrivo a dirti, guarda, anche chi se ne frega del campionato da un certo punto di vista, ma qui ci sono dei diritti di persone che hanno necessità, hanno volontà, hanno piacere di andare a vedere la partita, a vedersi uno spettacolo. Sì. Noi siamo a un passo dalla fine di tutto questo. Sì, sì, siamo sì. Veramente a un passo. E secondo me lo Tito, per quello che riguarda il discorso dell'applicazione di queste norme, ha ragione. Nel senso che è evidente che se ci sono 20 persone o 50 persone è impossibile controllarle. Sì, sì, ma soprattutto è il meccanismo del ricatto. È il meccanismo del ricatto possibile, secondo me già esistente, che arrivo, è odioso. Arrivo a dirti di più, cioè c'è pure la possibilità del sabotaggio, adesso qua tanto ormai vale tutto, c'è la possibilità del sabotaggio, c'è la possibilità che 50 tifosi della squadra X vadano a vedere una partita comprando il biglietto della squadra Y, cantando delle cose per danneggiare la squadra Y. È fantacalcio? No, mica tanto, mica tanto fantacalcio. Ad oggi con questa applicazione delle norme è una cosa possibile. Anche se Pier, credo che la sfida degli ultra sia su un altro livello in questo momento. Marina da Cesena, 800 24 00 24, buon pomeriggio. Buonasera, io siamo per discutere più che altro l'applicazione di questa norma, sì. Mi spiego, la stessa domenica ci è giocato Milan, i tifosi del Milan hanno fatto i corsi. Marina, ti sentiamo male, facciamo così, proviamo con la regia a recuperare la telefonata, andiamo a Milano dove c'è Simone, buon pomeriggio. Sì, voi, prego. Un'informazione. Il responsabile della tifoseria, che compiti ha in un club di calcio? Perché so che è obbligatorio dell'anno scorso, io ho cercato di informarmi, ma è proprio chiusa come ambiente. Forse è lui la figura chiave di tutto ciò. Cioè la figura di raccordo tra i club e i club di tifosi. Però Pier, a me risulta che stiamo parlando dei club quelli ufficiali, mentre certo. Il territorio dei club ultra è un territorio che dal punto di vista normativo non è previsto. Stiamo parlando di una cosa che per l'estensione del fenomeno dell'altro giorno in occasione di Juve-Milan è una cosa che può diventare veramente potenzialmente un gruppo di 20 persone, anche dei cani sciolti che non appartengono a nessuna curva, a nessun gruppo, che si equalizzano, fanno un coro e finiscono per danneggiare prima con la chiusura del settore, poi con la chiusura dello stadio, poi con lo 0-3 e poi con le penalizzazioni fino addirittura all'esclusione del campionato, perché questo dice il codice. Quindi adesso, al di là del discorso delle curve, che sicuramente è un discorso interessantissimo, qui c'è un principio che può portare al fallimento completo del sistema se le norme vengono applicate in questo modo. Io credo che si debba trovare un punto d'equilibrio, perché sicuramente un anno fa dicevamo che era una vergogna che di fronte a certi cori non succedesse nulla, e io rimango convinto che sia una vergogna, nel senso che comunque non sono tollerabili, non sono accettabili, ma se questo poi significa dare poche persone le chiavi esagerato. Dello stadio e la possibilità di chiudere lo stadio semplicemente giocando con le parole, con il fiato delle proprie voci, beh, insomma, secondo me siamo di fronte a un rischio enorme, e siamo alla settima giornata. Siamo alla settima giornata, siamo a inizio ottobre. Il Milan è alla seconda sanzione alla settima giornata, Roma, Lazio e Inter hanno una sanzione alla settima giornata. Cioè qua arriviamo alla 25esima e non va più allo stadio nessuno, sì, scusate sì. Il quadro apocalittico, però E poi arrivano gli 0-3 e poi tutto il resto, ti correggo, la Roma non ha sanzioni perché deriva dalla stagione scorsa, ma questo è un dettaglio, lana caprina buona per gli avvocati. Marina da Cesena, vediamo se riusciamo a sentirti. Marina, buonasera. Prego. Buonasera, sì, io chiamo perché nella stessa domenica in cui c'è stato Milan-Napoli e ci sono stati i cori contro i tifosi del Napoli, a Livorno si è giocata una partita, Livorno-Catania, dove lì andava bene dire Etna bruciali tutti, mentre invece a San Siro Vesuvio bruciali tutti sono stati puniti. In più, e quindi mi chiedo, chi è che ascolta questi cori, ascolta solo quelli che vuole? L'altra sera con la partita con la Juve ci sono stati tifosi contro i napoletani e nessuno ha sentito. Sì, c'è un problema Marina di uniformità, ha ragione. Io sinceramente Livorno-Catania mi era sfuggita, Pier, devo sì, essere sincero. Sì, ma è un problema enorme. Però è un problema. Io inviterei qui tutti quelli che stanno dalla stessa parte, cioè quelli che sognano un calcio normale dove si può andare a non fare battaglie da tifosi, cioè a provare, partiamo dal presupposto della buona fede, perché altrimenti non andiamo da nessuna parte. Ecco, se pensiamo che ci sia qualcuno che in maniera conscia delle volte sente, delle volte non sente, secondo me rischiamo. Detto questo, io qualche dubbio ce l'ho, perché insomma, anche perché questa materia della discriminazione è diventata talmente sottile che appunto c'è da chiedersi, certamente un coro sull'Etna è uguale a un coro sul Vesuvio, ma anche un coro Milano in fiamme rischia di, cioè, siamo ne parlavamo qualche giorno fa, siamo in un in un terreno rischiosissimo, perché siamo in un terreno di discriminazione molto molto sottile. Allora, o veramente si codifica che cosa si può dire e che cosa non si può dire, ma diventa ridicolo, oppure veramente io non vedo una via d'uscita. È evidente che qualcosa si dovesse fare, perché io personalmente non ne potevo più di quei cori lì, e secondo me non hanno nessun significato, non sono una normale dialettica. Per la dialettica c'è figlio di, ci sono altre cose che si possono dire allo stadio. Io personalmente ho detto mille volte, non voglio lo stadio come un teatro. Sono convinto che nelle curve, anche nei gruppi ultra, ci siano dei valori, anche di aggregazione, importanti, che non vanno buttati via. Quindi io non sono per la colpevolizzazione a prescindere, però sicuramente ci sono delle cose che non sono tollerabili. Grazie Pier. Senti, a proposito di cori, di questioni borderline, io ti saluto, però domani torni, vero? Ci sei? Sì, io... Ci sei sempre. Sempre. Torna anche Carlo, domani, sono tutti preoccupati. Stiamo lavorando per l'infiltrazione, sì, ha un problema alla schiena, ma insomma... Lo mandiamo a Milan Lab. Ti lascio con l'ultima moda dello Juventus Stadium, a proposito di cori sui napoletani, discriminazione o quel limite che non va superato. Ciao Pier, traffico. Convocati. Che vuol dire che se io questa sera mi metto allo stadio, me la prendo con quelli di Porta Romana, io che abito a Brera, per esempio, quella è discriminazione territoriale, perché anche all'interno di una città ci sono i vari territori. Oh, io non lo so se quella è discriminazione territoriale o no, 800 24 00 24, però vi leggo un paio di notizie che vengono dalla cronaca di questa mattina. Perquisizioni sono state compiute dalla Digos nelle abitazioni di Ultra del Verona per gli incidenti avvenuti domenica scorsa a Bologna. Cinque tifosi sono stati accompagnati negli uffici della questura, la posizione in fase di accertamento. Perquisizioni anche a Bologna, si è saputo dell'arresto di un arresto già eseguito, si tratta di un 39enne accusato di rissa aggravata e lesioni. Nelle immagini lo si vede con un'arma in mano, probabilmente un coltello. E poi altri 19 provvedimenti cautelari a carico di ultra del Venezia, stiamo parlando credo della Lega Pro. Le accuse nei loro confronti vanno dalla rissa aggravata alle lesioni. In particolare si contesta un episodio dell'ottobre del 2012, quando un tifoso venne colpito con un oggetto contundente e finì in coma. Queste sono notizie che arrivano questa mattina da tutto ciò che circonda il mondo del calcio. Mauro da Udine, 800 24 00 24, buon pomeriggio. Buon pomeriggio anche a voi. Prego. Grazie della convocazione. Volevo soltanto dire, non so se riesco a essere chiaro a quello che ci provi. Nel senso, io vado allo stadio, mi vedo la partita, a me non mi cambia niente se ci sono i cori razzisti, non cambia né a me né alla società, faccio finta di non ascoltarli. Ma voi pensate che veramente sono razzisti quelli che fanno i cori razzisti? È una moda, lasciamoli stare, lasciamoli morire. Sì, però qualcosa va fatto, Mauro. Sì. Non è vero che si deve lasciar andare. Io credo, mi permetta, lo diceva prima anche Pierluigi Pardo, lo sottoscrivo, noi abbiamo sbagliato l'anno scorso, queste norme esistevano già, semplicemente esistevano anche l'attenuanti, probabilmente a un certo punto si doveva risparmiare qualche multa, qualche diffida e cominciare a scattare subito con delle sanzioni, con delle chiusure di settori, magari anche dello stadio. Invece non si è fatto nulla l'anno scorso, un anno fa, due anni fa. Alla fine la UEFA si è scocciata, queste norme sono troppo rigide e quindi hanno tutti i pericoli di cui abbiamo parlato, però fare nulla credo non sia la soluzione. Prego Mauro. Scusi, ma posso dire? Prego. Ma fanno del male? Che cosa fanno? Fanno del male fisico? No, però fanno del male comunque, perché hanno una cassa di risonanza che non devono avere. Sì, ma non cambia niente, è una moda, sono stupidi, sono ignoranti. Sì. Non sanno che cos'è il razzismo. No, però vanno comunque fermati, Mauro, in qualche modo. Secondo me il modo non è questo, però vanno fermati. Marco da Napoli, buon pomeriggio. Marco? No, c'è qualche problema. Tommaso da Salerno, allora, buon pomeriggio. Buongiorno a voi. Prego. Allora, volevo dire, al contrario dell'ascoltatore che mi ha preceduto, sì, essendo io napoletano e tifoso del Napoli, vi posso assicurare che a me non fa piacere sentire in tutti gli stadi d'Italia questi cori da 30 anni a questa parte. È l'ora di finirla. Allora, se c'è una norma va rispettata, altrimenti non siamo un paese serio. Poi, se la vogliamo cambiare a fine campionato, la norma si cambia. Ma Galliani non dà un bel esempio quando adesso sta facendo tutta questa polemica sulla norma che va cambiata, perché non si dà proprio il buon esempio. Non è un buon esempio anche per chi vuole combattere la violenza negli stadi, il tifo organizzato. Secondo me Tommaso Galliani dice delle cose sacrosante in questo momento. Il problema è che poteva dirle prima. Esatto. Quello che contesto io sono le parole di Galliani 2 settimane fa, quando definì impeccabile l'atteggiamento della curva, che era andata, entrata a Milanello, cosa secondo me assolutamente incomprensibile, incommentabile, per sostenere la squadra, per incontrarli. Provi lei a entrare a Milanello o dove vuole entrare da tifoso normale. Marco da Napoli, buon pomeriggio. Ciao, senti. Prego. Allora, io in riferimento a tutto quello che sta succedendo nel mondo del calcio, io sono napoletano, però sono tifoso del Milan. Ho un abbonamento al Milan e io ho già prenotato l'aereo e l'albergo per Milano Udinese, per farti capire. Sì. Ora, per come andrà a finire situazione, vedremo, secondo me il ricorso verrà accettato. No, ma no Marco, lei Milan Udinese starà serenamente a casa, oppure venga, faccia un giro a Milano da turista, ma la partita sì, non la vede. Essendo abbonato già da un paio d'anni, il turista lo faccio spesso. Marco, il ricorso non ha nessuna possibilità di essere accolto. Okay, si metta l'anima in pace. Il discorso è uno solo. Gettiamo gli abbonamenti, chi di Milano, chi in altre parti d'Italia, chi in altre tifoserie, perché vedremo da oggi in poi, vedremo 2-3 campi, 2-3 stadi a domenica vuoti, e quindi gente, ci sarà molta più gente ormai sui divani di casa anziché allo stadio. Non c'è dubbio. Perdonami, a questo punto dovremmo fare una brutta, come dice Galliani, televisione non l'hanno sentita, solo questi funzionari, lo faremo a gara a chi sente il cuore. Sì, però Marco, questo in realtà è il pezzo che manca delle dichiarazioni di Galliani. Cori, c'è chi li ha sentiti, c'è anche chi l'ha detto. Ieri io ho sentito con le mie orecchie il capo degli ultra del Milan intervenire in una trasmissione nazionale per dire che loro i cori li hanno fatti e sapevano benissimo che cosa stavano facendo, e lo hanno fatto apposta, e altre curve lo faranno e altri stadi verranno chiusi. Grazie Marco. Abbiamo un minuto, Franco, dalla provincia di Modena. Sì, ciao, rapido buonasera. Però, prego. Una cosa, intanto questa norma ha colpito il Milan, io sono un tifoso milanista, sì, che ha una grossa risonanza e non ha fatto altro che coalizzare gli ultra, tant'è che adesso inizieranno, saranno 20-30, inizieranno ad essere le curve intere. E poi una cosa, io non sono un ultra, sono anche un padre che va allo stadio con il proprio figlio, però io nel comunicato che ha fatto il Milan Club, diciamo, sì, la curva. Che lei continua a dire che è un comunicato allucinante, io non lo trovo così allucinante, nel senso che loro hanno detto semplicemente ci state togliendo la voglia di fare, perché lo sfottò da che esiste il calcio e esiste, e questo metterà in condizioni di assistere alle partite. Franco, secondo me loro hanno detto una cosa diversa, grazie. Comunque hanno detto che d'ora in poi decidono loro, ma lo hanno anche scritto, non solo gli ultra del Milan. C'è il GR, ci fermiamo, poi torniamo. Tutti convocati. 800 24 00 24. Carlo, ci sei? Presente. Ciao, mal Giovanni, di schiena, convocato. Però domani ci sei, vero? Sì, c'è Pardo che mi vuole bene, mi porta a fare un'infiltrazione da tale dottor Morte, pare sia bravo. Sì, ti hanno paragonato a Redondo. Redondo. Molto peggio di Redondo, molto peggio. Diversamente giovane. sì, è così. No, comunque io sto nettamente meglio di Redondo, sono pronto per giocare nel Milan, tanto di infortunati ne hanno pochi. Non so se hai seguito la prima ora, il dibattito, sì, l'intervento, secondo me molto interessante, del presidente Claudio Lotito. sono in tanti che lo criticano, secondo me ha ragione, ha ragione quasi su tutta la linea. Ti leggo qualche messaggio: 349-238-6666. Non vedo l'ora di vedere allo stadio solo gli ultra, così saranno contenti questi teppisti. Poi ricordate che in curva non c'è nessun gruppo di persone che si azzarda a fare nulla senza il consenso dei capi storici. Ancora, i teppisti si sconfiggono con la tolleranza zero. Per quanto sono brutte le partite del campionato italiano, tanto vale che fermino il campionato. Questo l'ha scritto un amico. E poi Gagliani va a cena con il capo degli ultra, così come tante altre società fanno la stessa cosa. Bisogna denunciare i nomi e i cognomi, altrimenti lasciate stare. Lo abbiamo detto, ad esempio, incommentabile quello che è successo a Milanello prima di Milan-Sandoria. Però proviamo ad alleggerire un po', Carlo. Dimmi cosa ne pensi, poi parliamo di nazionale, di Totti. Ricordando che io sono a rischio di incolumità fisica, sono a favore del tifo disorganizzato. Cioè, secondo me, la cosa che bisognerebbe fare non è tanto cambiare le norme quanto sciogliere le curve. Uno vuole andare allo stadio, compra il suo biglietto e ci va, perché le tifoserie organizzate sono delle società a scopo di lucro che non pagano le tasse, oppure certe volte delle associazioni a delinquere. A proposito, poi chiudiamo davvero l'argomento. Sì. Ti faccio sentire che cosa è successo oggi a Benevento, pochi minuti fa. Felice Vacuo e il suo messaggio di scuse agli ultra del Benevento: era colpevole di aver salutato i tifosi della Nocerina, suoi ex tifosi, dopo il derby domenica tra Benevento e Nocerino. Gli ultra avevano detto: entro sera lasci la città. Sentiamo Vacuo. Domenica, dopo la partita, dopo aver vinto, siamo andati tutti quanti sotto la nostra curva ad esultare, a gioire per un successo per noi importantissimo. E dopo aver esultato tutti insieme con i tifosi, mi sono diretto verso la tifoseria ospite, dove c'erano i tifosi della Nocerina, per omaggiarli di un saluto di riconoscenza nei confronti di una tifoseria che mi ha accolto in un momento molto difficile della mia carriera professionale, mi ha sostenuto per un anno intero e mi ha osannato come se io fossi Batistuta, ma io Batistuta non sono. Se qualcuno si è sentito offeso del mio gesto, oppure l'ha interpretato come una mancanza di rispetto nei confronti dei tifosi del Benevento, assolutamente non era quella la mia intenzione, anzi. Ma si può, Carlo? Ma no, poverino, dai. Mi sembrava una distorsione di questo sistema di folli, ma a maggior ragione, ma i tifosi facciano i tifosi, cioè non devono potersi permettere di parlare con i giocatori, con gli attori protagonisti, se no andiamo a teatro e facciamo l'invasione del palco per parlare con quelli che recitano, o al concerto e facciamo l'invasione del palco per parlare con il cantante, ma che senso ha? No, non ha davvero nessun senso. Dai, parliamo di Totti. Buon pomeriggio Evaristo Beccalossi, ciao Evaristo. Ciao, buongiorno a tutti. Ti piace Totti che torna in nazionale? Se torna. Ma lì si è fatta un po' troppa confusione, come sempre. Cioè, Totti credo che in questa condizione come fai a non portarlo? Cioè, bisogna vedere i mondiali come starà un giocatore così, lo porti. E poi seconda cosa, ma cosa deve fare da chioccia a parte dalla panchina? Uno così deve giocare, che è protagonista, sa fare ancora la differenza nonostante i 37 anni, e non esiste niente. L'importante è che arrivi verso i mondiali con questa condizione. Poi sì, dentro subito, Carlo, ma io sono d'accordo, ma a maggior ragione, ma perché non convocarlo subito allora, se lo devi integrare dentro un ragionamento da titolare, Carlo? Grande Beck, grandissimo, ha ragione lui come sempre. Mi ricordo uno striscione di quando giocavi: Evaristo non ti ferma neanche Cristo, non so se si può dire. Un po' esagerati, ragazzi. Sì, ha ragione Beccalossi, Beck, non trovi che Prandelli abbia fatto un po' troppo democristiano con questa situazione su Totti? Allora, sa già come gestirlo Totti, perché chiamarlo adesso non ha senso, perché tutti abbiamo visto come sta e come sta giocando. Il problema di Totti è arrivare e avere quella condizione qua. Nell'attimo in cui ci sarà questa condizione e lui dimostra sul campo di meritare di giocare, perché è ancora più forte, partirà la telefonata di Prandelli che gli dirà: a Francè, vieni con noi in Brasile. Lui dirà sì e la cosa si risolve. Secondo passo non ha senso, perché si presume che il Totti migliore sia questo, e che arrivi in Brasile con questa condizione non ci sarà neanche problema che deve fare la chioccia a questo o quell'altro. Pronti via, va a giocare con gli altri, con Palotello, chi campo, chi deciderà. Non c'è il rischio, lo scrive oggi qualcuno, lo paventa, che poi Totti in Brasile sia ingombrante. Io ho letto da qualche parte, ricordo la tua vicenda nel 1982 con Berzot, che tu a un certo punto hai detto: io ho capito dopo che se mi convocava l'opinione pubblica avrebbe spinto perché giocassi sempre titolare, questo era un problema. Torniamo indietro di qualche annetto, però proviamo a mettere in parallelo le due storie. No, ho capito, sono altri tempi e credo che il calcio sia cambiato, credo che il dialogo che c'è adesso probabilmente non è come allora, e Totti sicuramente non è ingombrante, perché se è un Totti così non è che deve bussare alla porta dello spogliatoio e dire: scusate, sono qua, voi vi siete fatti il mazzo per arrivare fin qua, adesso arrivo io e prendo le luci i compagni. Sono i primi che dicono: meno male che c'è anche Totti che mi fa vincere, Ma non fa casino in un gruppo, non rompe gli equilibri? C'è qualcuno che ci scrive via SMS, uno che antepone il club alla nazionale non va più convocato, lui si è ritirato tanti anni fa, adesso si arrangia. Ma è giusto che la gente la pensi in un certo modo, ma gli addetti ai lavori devono guardare esclusivamente gli interessi del risultato e della nazionale. Un Totti così adesso, cioè, con tutto il rispetto... Ah, ma io sono dalla tua parte, credo chi, anche Carlo, anzi, l'ha detto. Come no? Di chi, cioè, quando arriva uno forte, solo i mediocri possono dire: ecco, arriva questo qua, trova la pappa pro... No, quello mediocre, normale o forte, arriva fuori classe e gli dico: ehi, dacci una mano a arrivare più lontano possibile. Sì, anche se Carlo, mi sembra che gli ultimi tormentoni su giocatori come può essere in questo momento Totti e la nazionale non abbiano portato tanto fortuna. Io mi ricordo Baggio con Trapattoni, l'europeo del 2004, certo. Ricordo Cassano e Balotelli con Lippi prima del mondiale del 2010, cioè alla fine poi i CT preferiscono fare a meno del Piero. Del Piero in tutte le occasioni, no, io sono d'accordo col Beck a prescindere, però su una cosa non sono così d'accordo, cioè convocare Francesco Totti è come convocare il Circo Barnum in nazionale. Io sono il primo a dire: devono giocare più forti, lui ha ragione da vendere, è chiaro che devono giocare più forti e Totti è il più forte giocatore italiano o giù di lì, però convocare un giocatore così significa ad ogni conferenza stampa avere 40 giornalisti e tutta l'opinione pubblica italiana a dire: gioca Totti? Quanto gioca Totti? Dove gioca Totti? Con chi gioca Totti? Insomma, io mi rendo conto che per Prandelli, come per ogni altro commissario tecnico relativo ai nomi di cui sopra, Beccalossi compreso, convocare un giocatore così vuol dire sapere di portarsi dietro il Circo Barnum, e questo è inevitabile. Che fa il giocatore, il Totti di turno, Becca? Poi gufa quando è lì, gufa che magari il titolare non faccia benissimo. Ti ripeto, allora, a parte che Prandelli sa benissimo come funziona tutto, perché è chiaro che se hai Totti, giornalisti, stampa così, 9 fanno le domande a Totti o su Totti. Però Prandelli è talmente, insomma, ha dimostrato di saper gestire determinate situazioni. Non credo che sia quello il problema. L'unico problema, secondo me, che è quello vero, che Totti arrivi in questa condizione per i mondiali. Poi dopo io porto via tutti i migliori, e siccome ritengo che Prandelli ha il carisma e la personalità per poter gestire tutti i più bravi, se la gestirà là. Ma dov'è quello che io ho visto degli allenatori? Ho criticato anche Lippi, che ho grandissima stima, quando diceva: non porta Panucci che aveva fatto bene, non porta Balotelli, Cassano. Sì, lasciamo stare, credo, il carattere, quelle cose, esatto, lì, insomma, devono venire i migliori. Come anche Lippi aveva la personalità e il carattere, che è un vincente, ha vinto tutto, cioè, e devo legarmi a queste cose. Io porto via tutti i migliori, poi quando sono là me la gestisco io. Grazie Becca. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Grazie, ciao, Evaristo Beccalossi. Ciao Carlo, a domani. Ciao, allora. Ciao Giovanni, grande Beck. Sentiamo domani, se non ci sono è colpa di Pardo, eh? Certo, domani 14:05, tutti convocati fino alle 15:20. Un ringraziamento a Franco Piantani, l'autore di questa puntata, a Robby Scaltritti dietro il vetro. Ciao anche da Giovanni Capuano. Felice Vago non è un giocatore normale, non è smaliziato, non è un mercenario, è un ragazzo pulito che ha pensato di ringraziare qualcuno senza pestare i piedi agli altri e ha fatto un gran casino. È stato un gesto inopportuno, non si può fare un provvedimento disciplinare per chi ha un atteggiamento che si condivide. Non ho mai pensato alla risoluzione del contratto. No, ci ha pensato lui. E questa è una ulteriore prova che Felice Vago sta bene in questa squadra, perché è il primo calciatore in 7 anni che mi mette sul tavolo un contratto con qualche zero in più per la pace e per il sogno del Benevento. E se tanto mi dà tanto, È meglio avere un ragazzo che saluta la vecchia tifoseria piuttosto che qualcuno che in maniera intelligente, furba, non lo fa, ma poi la sera magari va a festeggiare da qualche altra parte.